Italia in controluce. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchessi. Oggi è il 15 di gennaio ed esattamente 20 anni fa, il 15 gennaio del 93, veniva finalmente assicurato alla giustizia Totò Riina, il boss dei boss di Cosa Nostra. Ucurtu, questo è uno dei tanti soprannomi, l'altro è La Belva, veniva bloccato davanti alla sua villa in via Bernini al 54 a Palermo, insieme all'autista, un altro mafioso, Salvatore Biondino. A 20 anni da quella importante operazione aleggiano oggi ombre sulla mancata perquisizione di quella villa, sui rapporti tra Stato e mafia al centro oggi di un'indagine delicata ma importante che coinvolge politici, uomini delle istituzioni e criminali tra i più efferati. Lo ricordo responsabili tra l'altro delle stragi di Capaci, di via D'Amelio a Palermo, in via Fauro a Roma, via De Giorgofili a Firenze, via Palestro a Milano, degli attentati al Velabro e al Laterano a Roma, della mancata strage allo Stadio Olimpico. E allora, 20 anni dopo, che cosa ricordate di quella stagione, cioè della stagione delle stragi di mafia che hanno insanguinato l'Italia? Cosa ricordate di Capaci, di via D'Amelio, di via De Giorgofili? Quali le immagini? Io ho un ricordo, quello di via Palestro a Milano, 27 luglio, notte, e questo silenzio incredibile, intorno alla una di notte questo silenzio e questa macchina che continuava a bruciare, e era la macchina che era stata utilizzata dai mafiosi per cogliere in trappola quei poveri uomini dei vigili del fuoco, e che aveva colpito anche un marocchino che dormiva dall'altra parte della strada. Questo ricordo, io che sono, diciamo, uno che di queste vicende purtroppo mi è toccato raccontarne molte, e questa immagine desolante di questa Milano che se ne andava in ferie, in silenzio, mentre una strage veniva diciamo costruita, realizzata, insieme ad altre stragi. Allora, Raffaella Calandra. Sì, Daniele, il 15 gennaio del 93 non è soltanto una data da, diciamo, ricordare perché avvenne una cosa importante, ma perché è una data intorno a cui partono e ritornano a quel covo di via Bernini i misteri di Palermo, ma anche le inchieste tuttora aperte. Quindi è una data che è tuttora sotto indagine, e anche per questo ne parliamo. In quella villetta del quartiere Uditore, diventata ora uffici dell'Arma dei Carabinieri, è anche un nodo tuttora insoluto delle trame di una stagione di bombe e di trattative tuttora all'attenzione dei magistrati. La cattura di Riina, infatti, quello che portò all'arresto del capo dell'ala stragista di Cosa Nostra, e poi soprattutto quello che avvenne dopo, ossia il mancato controllo e la mancata perquisizione del covo, sono ora parte cruciale dell'inchiesta, come ricordavi, sui patti occulti tra Stato e mafia, e ritornano anche nelle lettere dell'ultimo corvo, una lettera anonima di una persona che sembra però ben informata, secondo cui quel materiale di quel covo mai controllato fu inizialmente portato all'interno di una caserma dei carabinieri. Misteri, dunque, ombre e trame di cui inizialmente ebbe ad occuparsi il procuratore Giancarlo Caselli, che proprio quella mattina del 10 gennaio del 93 si insediò a Palermo, e che è stato anche per questo ascoltato nel processo a carico del generale Mori, finito poi con una assoluzione proprio per la mancata perquisizione di quel covo. Sentiamo il procuratore Caselli. Misteri come quello della mancata perquisizione del covo. Noi volevamo perquisire questo covo e i carabinieri ci hanno parlato di un'operazione di più vasto respiro che sarebbe stata compromessa dalla perquisizione. Abbiamo accettato questa impostazione convinti che il covo sarebbe stato guardato a vista, cosa che non è avvenuta con tutti i misteri e le polemiche che si trascinano ancora oggi. Il 15 gennaio del 93, appunto il giorno della cattura di Totò Riina, lei si era appena insediato nella procura più difficile, più drammaticamente sotto gli occhi di tutta Italia, che era appunto la procura di Palermo. Come andò quella infinita giornata? Quando arrivo trovo una procura sfasciata, ancora percorsa da veleni, tensioni, polemiche, corvi, feroci polemiche su Falcone. L'arresto di Riina è il primo di una serie infinita di altri arresti altrettanto eccellenti. Il possibile arresto di Riina avevo già sentito parlare a Torino. Il comandante della regione Piemonte dei Carabinieri, generale Delfino, mi convoca, mi dice che è una cosa da dirmi, vado da lui, mi dice che c'è un pentito che probabilmente può portare a catturare Riina. Chiedo che immediatamente sia convocato il colonnello Mori, a capo dei Rossi. Avevo molte volte cooperato ai tempi del terrorismo, lui era uno degli uomini della Chiesa. Certo. E Delfino racconta anche a Mori quello che aveva appena raccontato a me. Prendo il telefono, avverto i miei colleghi di Palermo, loro magari col concorso di altri fattori, non lo so, sicuramente si arriva alla cattura di Riina e prima cosa che mi viene detta, scendendo la scaletta dell'aereo, è che questo arresto c'è stato. Ricordiamolo chi era il pentito. Balduccio di Maggio. Esatto. È pentito che poi diventerà famoso, per qualcuno famigerato, per la storia del bacio che Riina avrebbe dato ad Andreotti. Del ruolo invece di Ciancimino, di Massimo Ciancimino, all'epoca si parlava? Proprio perché l'inchiesta è in un momento delicatissimo, i pubblici ministeri di Palermo hanno formulato le loro richieste di rinvio a giudizio. Per evidenti ragioni di opportunità io ritengo che non sia giusto che parli. La cosa più naturale dopo la cattura avviene la perquisizione. Nel caso specifico di Totò Riina questo non è avvenuto. Con che cosa successe? Noi avremmo voluto perquisire, i carabinieri ci hanno parlato di un'operazione più articolata con cui la perquisizione avrebbe potuto interferire negativamente. Abbiamo deciso di accedere a questa impostazione nella convinzione che il covo sarebbe stato sorvegliato, la cosa invece purtroppo non è avvenuta. Quella mancata perquisizione fu parte della trattativa tra Stato e mafia. Da una parte dunque i racconti del pentito Balduccio di Maggio su come si arrivò alla cattura di Riina, dall'altra invece le versioni che ai magistrati e poi anche a noi ha consegnato il figlio del sindaco mafioso di Palermo, Massimo Ciancimino. Sentiamolo. Il ruolo di mio padre nell'arresto di Riina, credo che qualcosa oggi bene o male si può leggere anche in qualche sentenza. Non può essere messo in discussione il fatto che nel giugno del 92 sono le istituzioni, nella persona del capitano De Donno, che contatta me, a cercare un canale prioritario con il vertice di Cosa Nostra. Ma quindi suo padre sapeva dove si nascondeva Riina o comunque ha potuto saperlo nel momento in cui ha cercato questo tipo di informazione? Mio padre non sapeva dove stava Riina. Che poi mio padre avesse chiesto e avesse avuto le risposte in merito dove era possibile l'ubicazione dell'abitazione di Riina e familiari, questo lo so per certo, perché sono stato io quello che anche ha preso queste famose piantine dove era circoscritta la zona dell'abitazione di Riina. Io ricordo Antonino Caponnetto che diceva e continuava a ripetere la stessa frase: è tutto finito, scrive Emilio al 349-238-6666. Vi abbiamo chiesto che cosa ricordate di questa stagione delle stragi di mafia che hanno inseguinato l'Italia nel 1992, Capaci, via D'Amelio, poi nel 93 da via Fauro fino alla mancata strage allo Stadio Olimpico che doveva avvenire alla fine d'ottobre, esattamente il 31 di ottobre. 349-238-6666, anche se esiste secondo voi, come pare ormai evidente, un connubio tra Stato e mafia, e chi sono secondo voi i burattinai? 349-238-6666. C'è un'altra storia, vero Raffaella, che è invece la storia di oggi, cioè di questa inchiesta. Esatto, abbiamo poi parte inizialmente già parlato, cioè di come quelle vicende di 20 anni fa entrano completamente anche nell'inchiesta sulla trattativa Stato-mafia. In questo momento è in corso l'udienza preliminare, la procura ha chiesto il processo sia per i superboss che per gli uomini di Stato, ex ministri. Contemporaneamente i misteri di allora ritornano anche nelle lettere anonime dell'ultimo corvo che sta agitando il palazzo di Palermo, una lettera anonima arrivata al procuratore Nino Di Matteo, resa pubblica, una lettera che parla anche della possibilità che quel materiale, come dicevo prima, sparito dalla casa di Totò Riina e che inizialmente sembrava essere stato portato via dai mafiosi, in realtà sia finito in una caserma dei carabinieri. Altri misteri su cui però invita ad essere molto cauto il procuratore Maurizio De Lucia dalla Procura Nazionale Antimafia. a 20 anni di distanza da quella cattura e da quella mancata perquisizione si può andare verso una rilettura di quei fatti che pur sono stati anche già valutati anche in sede giudiziaria? L'arresto di Riina il 15 gennaio del 1993 ha segnato un colpo comunque molto importante dello Stato nei confronti di Cosa Nostra, e questo ha in qualche modo segnato un mutamento di strategia da parte dell'organizzazione mafiosa, che essendosi trovata senza l'ispiratore della stagione stragista ha cercato altre strategie. Dopodiché i contorni relativi alla cottura di Riina restano coperti da grandi margini di ambiguità, ma questo naturalmente lo dicono le sentenze, a cominciare dalla sentenza del Tribunale di Palermo che mandò assolto l'allora generale Mori proprio dalle vicende relative al covo di Riina. Qualcosa di poco chiaro è rimasto, non so quanto siano gli strumenti della giurisdizione quelli che possono fare chiarezza a questo punto. Cioè, 20 anni dopo, se non ci sono elementi davvero nuovi, cioè la decisione di qualcuno di parlare, le segnalazioni di un corvo anonime non potrebbero bastare per arrivare ad una rilettura di quei fatti? Le notizie anonime devono essere vagliate, e su quello i colleghi stanno facendo con scrupolo il massimo lavoro possibile. L'arrivo di questa lettera anonima, considerando anche il momento, come la valuta? Arrivano molte anonime negli uffici giudiziari, solo alcuni e solo in determinati momenti acquisiscono, diciamo così, una fama diversa dal normale. Anche su questo bisognerebbe fare delle riflessioni, forse anche dal punto di vista delle investigazioni. L'anonimo in sé è oggetto di investigazione, la divulgazione dell'anonimo anch'essa dovrebbe essere oggetto di attenzione, nel senso, c'è chi scrive l'anonimo e ha interesse a scriverlo, c'è anche chi ha interesse a divulgarlo. Quella della cattura di Riina fu forse l'inizio un po' di un declino della potenza di Cosa Nostra. Si parlò del fatto che fosse stato venduto, del ruolo di Massimo Ciancimino, insomma a tanti aspetti ancora poco chiari, però che cosa rappresentò dopo quella così terribile stagione delle stragi arrivare a quella cattura di Totò Riina? Al di là appunto dei contorni di quella cattura, che sono tuttora oggetto di valutazioni perché profili di ambiguità rimangono, non c'è dubbio che noi venivamo da un momento in cui lo Stato era in ginocchio, autostrade esplose, i due magistrati più prestigiosi assassinati in quel modo barbaro. L'arresto di Riina segna sicuramente un momento di riscossa dello Stato. Di Capaci ricordo solo di avere pianto per delle ore, disperata, dice Anna da Udine. Come non ricordare il terrore sul volto di Maurizio Costanzo, William di Ascoli Piceno. Un altro ascoltatore ricorda invece Sgarbi, che definiva in televisione Riina un semplice poveretto, vergogna, aggiunge. Ad ogni attentato un dolore immenso che non bloccava mai il senso del democratico sentirsi cittadino desideroso sempre di verità. Grazie Luigi Maro Peretti. Questo è uno dei nostri ascoltatori, di tanti sms che sono arrivati. Vi ricordo domani 13:30, stessa ora, un nuovo argomento su Radio 24.